Allora, oggi è il 20, cos'era? Il 17 dicembre 2009. Allora, torniamo e chiudiamo con la questione di Flusser. Allora, Flusser critica il fatto che noi parliamo, che usiamo il termine immagine per tutte e tre le tipologie di immagini che lui ha introdotto in questo testo, cioè l'immagine, diciamo, l'immagine preistorica, quella della caverna di Lascaux, l'immagine storica, cioè quella della tradizione della storia dell'arte, dall'invenzione della scrittura in poi, e le immagini tecniche o post-storiche, cioè quelle create dagli apparati. Lui dice, noi usiamo lo stesso termine per usare queste tre immagini, però in realtà queste tre immagini hanno un significato diverso. Nel testo Immagini dei nuovi media, che è un breve testo, però molto chiaro, del 1989 addirittura, Flusser scrive così: a un'osservazione più ravvicinata delle situazioni raffrontate tra loro sorge il disappunto di avere parlato in tutti e tre i casi di immagine, mentre in ogni specifica situazione la parola ha un significato del tutto diverso. Nel primo caso, l'immagine di Lascaux significa una rivelazione ottenuta per distanziamento dal mondo della vita. Nel secondo caso, un contributo privato alla storia pubblica che esige di essere rielaborato da altri. Contributo privato alla storia pubblica. L'immagine è il contributo di un singolo, ma fa parte di una storia pubblica e esige una lettura e una rielaborazione da parte di altri. Questo è il mondo dell'immagine storica. Nel terzo caso, le immagini tecniche, un metodo per programmare il comportamento dei funzionari della società post-industriale. Quindi, e questo è il punto importante, per Flusser le immagini tecniche, le immagini prodotte dagli apparati, sono immagini che servono per programmare, c'è un programma, per programmare il comportamento, lui dice, di funzionari della società post-industriale. Chi sono i funzionari della società post-industriale? Nel lessico che lui mette in fondo a Per una filosofia della fotografia, il funzionario viene definito così. Funzionario. Un uomo che gioca con gli apparecchi e che agisce in funzione di essi. Gioca con gli apparecchi e agisce in funzione di essi. Vediamo come definisce fotografo. Un uomo che si sforza di mettere in immagine le informazioni non previste nel programma dell'apparecchio fotografico. Allora, vuol dire che questa concezione di Flusser, cioè che le immagini tecniche siano fatte per programmare il comportamento degli altri, non significa che Flusser ritenga che non sia possibile usare questi apparecchi in modo diverso. Vediamo che cosa dice. Ma in tutti e tre i casi è inevitabile parlare di immagine, e non solo perché nel significato attuale post-storico di immagine trapela il significato preistorico e storico. Le immagini balenanti sullo schermo racchiudono in sé resti della sacralità preistorica e dell'impegno storico, e certo tanto nel senso politico quanto nel senso estetico del termine. Proprio questo rende così difficile la valutazione della situazione attuale. Esiste la tendenza a identificare la ricezione delle immagini che compaiono sugli schermi con la ricezione delle immagini delle caverne, come se le nuove immagini ci ricacciassero in una condizione preistorica. Ma esiste anche l'altra tendenza a scambiare questa ricezione con quella delle immagini dei quadri in esposizione, come se le nuove immagini fossero ancora oggi emissioni di persone impegnate esteticamente e politicamente, anche se adesso non si tratta più di originali acquistabili, ma di multipli accessibili verbalmente. Ora, dice Flusser, in realtà nessuna di queste due interpretazioni delle immagini post-storiche va bene. C'è qualche elemento di quelle preistoriche e qualche elemento di quelle storiche, ma le immagini post-storiche hanno un'altra funzione, secondo lui, che lui esprime così. Così come sono trasportate attualmente, le immagini devono assolvere esattamente alla funzione descritta in precedenza di programmi di comportamento. Devono trasformare i loro destinatari in oggetti, e questa è anche l'intenzione sottesa a questo genere di trasporto. Ma, è qui uno dei punti, ma l'attuale metodo di trasporto non corrisponde necessariamente alla tecnologia dei nuovi media, bensì proprio solo all'intenzione ad essi sottesa. I media potrebbero altrettanto bene, o forse addirittura in modo anche più efficace, essere distribuiti altrimenti, non come fasci monodirezionali che connettono un mittente a innumerevoli destinatari, bensì come reti che connettono gli uni con gli altri singoli, mediante cavi reversibili, quindi non sul tipo della televisione, ma sul tipo della rete telefonica. Scritte nell'89, tutte queste cose evidentemente sono una premonizione dell'internet che c'era già allora e dell'internet che sarebbe venuto pochi anni dopo. Non esiste nessuna necessità tecnologica in base alla quale le immagini siano irradiate monodirezionalmente. Esse possono anche essere inviate e ricevute, fatte circolare. La situazione attuale delle immagini deve perciò essere considerata solo come una possibilità tecnologica fra le altre. L'intenzione sottesa al trasporto delle immagini, così come avviene oggi, è certo molto potente, ma non insuperabile. Ovunque emergono tentativi di commutazione del trasporto delle immagini, in particolare nell'ambito delle immagini computerizzate, qui possiamo osservare come certe immagini siano inviate da un mittente a un destinatario per essere rielaborate e ritrasmesse. Questi tentativi di operare una commutazione mostrano che è tecnicamente possibile aggirare l'intenzione sottesa all'attuale modalità di collegamento. Questi tentativi, detto in modo ancora più chiaro, mostrano che tecnicamente è possibile mettere fuori gioco il potere politico, economico e sociale. Allora, per sintetizzare e per chiudere, sia sul piano della distribuzione delle immagini che sul piano della intenzione di chi utilizza gli apparecchi, gli apparati, le macchine fotografiche o le cineprese, le telecamere, insomma questi, Flusser vede una possibilità di utilizzo diverso, o distribuendo queste immagini in modo diverso, quindi sottraendole alla logica, noi diremo broadcast, monodirezionale, uno molti, uno parla, uno manda immagini, molti altri le ricevono passivamente senza poterle modificare, da un lato, dall'altro invece quella del fotografo, ecco perché lui definisce fotografo, rileggiamo la definizione di fotografo. Fotografo, un uomo che si sforza di mettere in immagine le informazioni non previste nel programma dell'apparecchio fotografico. L'apparecchio fotografico, dice Flusser, ha un programma, questo programma qual è? Ha una intenzione, non lui, non la macchina, non l'apparecchio in quanto tale, ma coloro che hanno progettato, insomma, l'apparecchio, la logica di funzionamento di questi apparecchi è trasformare, programmare il comportamento delle persone, quindi trasformare le persone in oggetti, in esseri il cui comportamento sia prevedibile e eterodiretto. Però, dice Flusser, per fare questo, in un altro passo afferma questo, dice il programma della macchina è quello di esaurire tutte le possibilità, tutte le immagini possibili che si possono scattare con una certa macchina, che si possono produrre con una certa macchina. La logica di questa osservazione è questa: per poter, la riformulo un po', questa qui è detta con parole mie, non con parole sue, ma credo che sia il succo sia simile. Per poter realizzare effettivamente questo programma, per poter realizzare effettivamente questa trasformazione degli esseri umani in oggetti, quindi determinare il comportamento, gli apparati, le macchine, gli apparecchi devono avere una grande possibilità, devono essere in grado di produrre un numero sterminato di immagini, cioè tutte quelle che si possono fare con una macchinetta fotografica o con un cellulare, con una cosa qualunque. Che cosa significa questo? Significa che c'è un certo spazio per chi utilizza queste macchine per produrre delle immagini che siano effettivamente diverse da quelle previste nel programma di funzionamento dell'apparecchio. Quindi immagini che non ripetano pedissequamente il programma dell'apparecchio, ma immagini che siano, dice lui, altamente improbabili. Che cosa vuol dire improbabili? Qui Flusser si riattacca alla teoria dell'informazione, può essere criticabile questa cosa, insomma, di Shannon Weaver, cioè quella formulata nel testo del 1949, che è uno dei testi di avvio delle ricerche della cibernetica, Shannon e Weaver, teoria matematica della comunicazione. Teoria matematica della comunicazione, nella quale l'informazione viene definita come una serie di simboli trasmessi in un certo canale, eccetera, eccetera, e in cui questi simboli portano tanta più informazione quanto più sono improbabili. L'esempio che fanno Shannon e Weaver è io ho a un certo punto una, è chiaro che qui loro parlano chiaramente dell'informazione scritta, ma insomma ho di quella, però funziona altrettanto bene con quella trasmessa oralmente, sono una serie di simboli scritti o di suoni che viaggiano su un canale di comunicazione. Se io invece dopo una fila ho un'H, quest'H, la comparsa di un'H dopo la T è un evento altamente probabile. Il 70% delle volte che c'è una T nella lingua inglese, dopo ci sarà una H, e dopo ancora ovviamente ci sarà una E, perché questo è l'articolo inglese, una delle parole più diffuse in inglese. Quindi il valore informativo di quell'H è molto basso, perché è molto probabile che ci sia l'H. È un po' meno probabile, per esempio, che ci sia una W, un po' meno, cioè un po' meno parole inglesi cominciano con T, però molte anche di queste. Twitter, Twitter, che cazzo c'è, sono cose di parolacce, insomma, ci sono tante parole che cominciano con Twitter, ma un po' meno ancora cominciano con la E, un po' meno ancora con la O, un po' meno ancora con la U. Insomma, in questa teoria di Shannon Weaver il valore informativo di qualche cosa è correlato alla sua improbabilità. Più è improbabile un simbolo, maggiore è l'informazione che gli porta. Flusser fa una estensione, fa una analogia di questo meccanismo sul tema delle immagini e dice: ci sono delle immagini che sono altrettanto, diciamo, improbabili. Il fotografo può anche in qualche maniera, in qualche altro passaggio dice, c'è un, non è utile che li trovo tutti, tanto vi leggete poi, dice c'è una lotta tra l'apparecchio e il fotografo. L'apparecchio vuole, o si comporta come se volesse, non vuole nulla, l'apparecchio, ma le intenzioni che lo ha costruito, del sistema che lo gestisce, sono quelle di produrre immagini sempre più probabili, sempre uguali a se stesse, sempre per trasformare il comportamento degli esseri che le guardano e quindi trasformarli in oggetti. Ma il fotografo può avere un'altra intenzione, può cercare di produrre delle immagini diverse, sono quelle che in altri posti Flusser chiama immagini quiete, le immagini quiete, cioè le immagini, dice lui, che si sottraggono al flusso forsennato delle diciamo, creano occasioni diverse di. Da questo punto di vista, in questo senso, lui dice, le immagini possono contribuire ad aumentare non soltanto il valore informativo di una informazione, ma possiamo dire, potrei aggiungere io, possono aiutare a costruire o ricostruire un senso nel ricevere l'immagine. Il senso è qualcosa che anch'esso è dotato di un alto grado di improbabilità, non è così probabile che le cose abbiano un senso, quindi quando io trovo, quando costruisco un senso, evidentemente questo è un episodio della lotta dell'improbabile dell'organizzato contro il probabile e il disorganizzato, contro l'entropia, diciamo, insomma, che è più o meno la stessa impostazione di Sherwood. Allora, quindi, va bene, poi con voi con calma vi leggete uno qualunque di questi due testi, tanto che li dovete leggere, e quindi capite meglio di quello che vi dico io adesso che cosa intende Flus per immagini quiete. Quello che volevo provare a vedere oggi era se un'altra impostazione o qualche altra idea sul problema delle immagini poteva essere messo in relazione con queste. Allora, la nozione di che è un po' più complicata ancora di quelle di Flusser, ma cercheremo di spiegare un po' meglio, insomma, queste cose, e deriva da, viene da Walter Benjamin. Allora, Walter Benjamin era un intellettuale tedesco degli anni 20 e 30, collegato con l'Istituto di Ricerca Sociale di Francoforte, l'Institute for Social Fortune di Francoforte, che poi è passato alla storia con il nome di Scuola di Francoforte, diciamo Adorno e Horkheimer. In realtà lui poi non è però mai entrato lì dentro, ha avuto una vita difficile, travagliata, ha fatto una dissertazione negli anni 20, che ha pubblicato pochi libri ma moltissimi articoli. Tra i libri pubblicati ci sono questi, c'è la sua tesi di laurea che era una tesi sul dramma, sul teatro tedesco del XVII secolo. Infatti il libro si chiama Il dramma barocco tedesco, in realtà il dramma barocco, il termine barocco nel titolo è un po' una, può essere fuorviante, insomma, in realtà si tratta del dramma allegorico, insomma, quindi lui lì in questo testo traccia, tenta di comprendere la funzione dell'allegoria, cioè della traslazione di significati da una cosa all'altra. Poi ha scritto molte cose su Brecht, molte cose, comunque insomma, la grande opera della sua vita doveva essere questo volumone che vedete qua, Parigi, capitale del XXI secolo, che va anche sotto il nome di Opera sul Passage, o in tedesco il Passage in Werk. Lui non l'ha mai concluso perché si è suicidato nel 1940 nel tentativo di sfuggire ai nazisti. Walter Benjamin era ebreo e quindi va bene, capite bene che sì. Okay. Allora, questa opera è un'opera consistente in realtà in gran parte di frammenti, citazioni di libri. È una cosa enorme, però insomma, le parti scritte direttamente da lui sono molto poche, praticamente è un breve saggio all'inizio, chiamato Parigi, capitale del XXI secolo, ma veramente sono poche pagine. Tutto il resto sono una quantità enorme di pezzi di altri libri, citazioni, cose e osservazioni fatte da lui. Questo libro si era perso con il suicidio di Benjamin nel 1940, lui aveva questo scartafaccio enorme, una specie di... E poi è stato ritrovato circa 15 anni dopo, è stata fatta una edizione critica, più o meno critica, con tutti questi frammenti organizzati in varie sezioni, contraddistinte da lettere maggiuscole, insomma, quindi la situazione. Allora, è un libro che quindi è quasi impossibile leggere di fila, bisogna, io vi confesso che non lo conosco così bene, come, però sono, quindi mi fido di qualche altra guida, ogni tanto qualcheduno. Quindi la gran parte del libro è classificato come appunti e materiali, però questi appunti e materiali si trovano, ripeto, in diverse sezioni, e ci sono alcuni frammenti della sezione N che l'editore tedesco ha classificato come teoria della conoscenza e del progresso. Tra questi, quello che è importante per noi è il frammento N3.1, che è un po' più lunghetto degli altri, ce ne vari altri molto simili, e poi adesso vi leggo questo testo e poi lo metteremo in relazione con altri testi pubblicati in un'altra opera di Benjamin, che si chiama Tesi di filosofia della storia. Benjamin utilizza spesso termini come progresso, messo lì, filosofia della storia, che oggi godono di non godono di buona stampa, io credo giustamente, ma in realtà Benjamin dà a questi termini un significato che non è sempre quello usuale. Il progetto culturale di Benjamin fu molto bizzarro, Benjamin aveva delle salde convinzioni politiche, cioè era un delle sincere convinzioni politiche, quindi era un marxista sul piano, era marxista dal punto di vista materialista storico, non certamente materialista dialettico, perché però usa il termine dialettica ugualmente. Ma la caratteristica principale del suo programma è quella, in qualche maniera, di mescolare, di combinare, di far uscire di fare una combinazione inedita tra marxismo e messianismo ebraico. La sua cultura ebraica è fortissima, come Spinotto. Spinoza viene uno sforzo, c'è una lettura marxista ovviamente di Spinoza, non può essere una lettura spinoziana o spinoziana di Marx, insomma Marx non viene detto Spinoza, viene più di Marx, però cioè, Spinoza è un'altra di quelle due del pensiero, di quegli irregolari della cultura ebraica, che hanno dato uno dei contributi fondamentali alla cultura occidentale, ovviamente in modo non ortodosso, Spinoza è stato scomunicato anche dai cristiani, ma non era cristiano, dalla sua comunità ebraica, perché era considerato come era giustamente ateo o comunque materialista, però in qualche maniera alcune caratteristiche della cultura ebraica, soprattutto la direzionalità della storia, come se la storia andasse verso un certo, tornano. Però mentre nel positivismo ottocentesco, mentre in Spencer, in Comte, questa direzionalità della storia assume un carattere meccanico, sì, ci sono delle tendenze, e anche nel marxismo peggiore, anche in tanti delle letture, sia socialdemocratiche sia comuniste, ortodosse, del marxismo, c'è questa questo fatto di vedere, come dire, il compimento della storia, l'avanzare della storia verso, che è poi il tipo di Hegel, insomma, che è l'egelismo, che è lo spirito ha un progetto e prima o poi arriverà a fare qualche cosa. Quando questo, diciamo, messianesimo viene però combinato con una dose più forte, diciamo così, di volontarismo e quindi di necessità e di importanza dell'intervento cosciente degli esseri umani in una certa, diciamo, direzione, questo messianesimo, anche se in maniera molto rischiosa, può sfuggire a questa deriva, diciamo, positivista e meccanicista, per cui prima o poi le cose andranno come devono andare, e crea quindi delle cose più, delle costellazioni, uso il termine costellazione perché vedrete che è un termine di Benjamin, che usate Benjamin, un po' più interessanti. Allora, cominciamo con la lettura di questo famoso, frammento N3.1. È poco meno di una pagina. Vi dico subito che alcune cose sono difficili da capire, se non perché ci sono dei riferimenti a Heidegger e alla fenomenologia, ma possiamo lasciarli da parte, non credo che ci metterei troppo tempo a spiegarli. Allora, alcune frasi lasciatele così come sono, ma le altre sono più, si possono commentare, sono più interessanti. Ciò che distingue le immagini dalle essenze della fenomenologia è il loro indice storico. Però il termine indice storico, notiamocelo, perché ciò che distingue le immagini dalle essenze della fenomenologia è il loro indice storico, parentesi. Heidegger cerca invano di salvare la storia per la fenomenologia in modo astratto, attraverso la storicità. Vi parafraso perché sennò probabilmente non capite un cazzo. No, perché di quello mi è certo. Allora, la fenomenologia, tendenza filosofica così chiamata e iniziata da Edmund Husserl, di cui Heidegger è uno degli allievi di pochi anni dopo, insomma, è una teoria filosofica che si propone, il cui punto centrale è una rielaborazione del kantismo, cioè di Kant, della filosofia di Kant, e cioè la formazione, cioè diciamo, l'attenzione al lato epistemologico più che ontologico della filosofia. Ciò vuol dire l'attenzione al ruolo del soggetto all'interno del rapporto soggetto-mondo, più che non alla consistenza, alla fondazione di una consistenza ontologica appunto del mondo, quindi è più dal lato della epistemologia, cioè dello studio di come funziona il soggetto, di come funziona la visione del mondo, piuttosto che di come funziona il mondo astrattamente in quanto tale. Però nella versione di Husserl, cioè nella prima, diciamo, nella versione del fondatore del maggiore teorico della fenomenologia, rimane non un residuo, ma una forte impronta universalista. Ecco perché qui Benjamin può parlare di essenze della fenomenologia. Si ha un pensiero essenzialista, cioè un pensiero che privilegia l'ontologia rispetto all'epistemologia, è un pensiero che tende a vedere dietro alla mutevole apparenza delle cose un nucleo immutabile, esistente indipendentemente dall'attività del soggetto, descrivibile, cioè tale che si possa descrivere, tale che possa essere, ma dotato di una autonomia. Un pensiero storico, nel senso in cui Benjamin intende il termine storico, è un pensiero anti-essenzialista. Non suppone che le cose abbiano un'essenza immutabile. È cosciente del fatto che le cose hanno una storia, che mutano, che hanno una evoluzione e che quindi non possono mai essere descritte in quanto tali. Un pensiero non essenzialista, per esempio, non vi dirà mai che la natura umana è qualcosa di descrivibile, di positivamente descrivibile, o neanche che è descrivibile la materia in quanto tale. Tutto ciò che interessa allo non storicista, nel senso che, perché c'è uno storicismo che giustifica tutto con la storia, diciamo l'evoluzionista, un pensiero evoluzionistico, e in qualche maniera Benjamin può essere considerato un rappresentante di un pensiero del genere, è un pensiero che vi dirà come le cose evolvono, ma che vi dirà che l'unica descrizione possibile di ciò che sta alla base di questa evoluzione è un campo di possibilità. Quando Spinoza dice che Dio è la natura e che Dio è la materia, vuol dire semplicemente questo, che la materia è già, che il regno della, come dire, materia è il regno nel, che è aperto a ogni possibile evoluzione, ecco perché lo chiama Dio. Si può parlare di Dio anche essendo atei, perché si dà il nome di Dio a questa infinita a queste infinite possibilità evolutive della materia. La stessa cosa è per l'essere umano. L'essere umano è indescrivibile in quanto tale, perché le realizzazioni degli esseri umani sono diversissime, incommensurabili a volte, incongrue le une con le altre. Qual è l'unica cosa che accomuna tutti gli esseri umani di tutte le epoche, di tutte le storie, di tutti gli spazi, di tutti i tempi? È la loro potenzialità, cioè il fatto di avere una facoltà, di avere uno strumento che è il linguaggio, che può esprimere infinite e diversissime, infiniti e diversissimi processi. Qualsiasi tentativo di descrivere una natura umana ci porta alla fissazione, in genere tutti gli universali descritti non sono altro che l'assoluzione di cose particolari. Quando uno dice i diritti umani sono, mi rendo conto che può essere un po', sono difficile o anche disagevole dover riconoscere una cosa di questo tipo, ma ogni teoria universale, la grammatica universale, i diritti umani universali, non sono altro che alcune particolari caratteristiche di una particolare cultura, quella occidentale, e la loro elevazione dice tutti devono pensare così, ma non è così, storicamente le culture hanno espresso cose diversissime e non c'è nulla di comune tra queste culture se non la potenzialità di potersi parlare, di potersi esprimere e la potenzialità di potersi evolvere in vari modi e in vari motivi. Allora, adesso se lasciamo perdere per un attimo la parentesi su Heidegger, ciò che distingue le immagini dalle essenze della fenomenologia è il loro indice storico. Quindi la prima cosa che dice Benjamin sulle immagini è che le immagini hanno un indice storico, cioè sono un prodotto di attività evolutive della mente umana o delle culture umane. Queste immagini devono essere assolutamente distinte dalle categorie della scienza dello spirito, il cosiddetto habitus, lo stile, eccetera, eccetera. modi diversi che ha Benjamin per indicare le categorie universali. Esse hanno un indice storico. Ma poi viene la frase più importante. L'indice storico delle immagini dice, infatti, non solo che esse appartengono ad un'epoca determinata, ma soprattutto che esse giungono a leggibilità solo in un'epoca determinata. E qui abbiamo il secondo punto. Questo indice storico non vuol dire solo che la storia caratterizza la produzione delle immagini, ma anche la loro ricezione, il modo in cui vengono assorbite da una cultura. Il termine che usa in questo frammento Benjamin è leggibilità. Le immagini, il carattere storico delle immagini non vuol dire solo che esse appartengono a un'epoca, ma anche che giungono a leggibilità solo in un'epoca determinata. E precisamente questo giungere a leggibilità è un determinato punto critico del loro intimo movimento. Che cos'è che lega la produzione dell'immagine alla ricezione, anche in tempi diversi? È il fatto che le immagini hanno dentro di sé una potenzialità di movimento, possono in qualche maniera muoversi. Oh, e qui lo stile di Benjamin è molto simile a quello allo stile dei, in certi casi, dei profeti della Bibbia. Profeta laico, ma così parla un po' per aforismo. E precisamente questo giungere alla leggibilità è un determinato punto critico del loro intimo movimento. Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone. Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone. Ci sono immagini che sono sincrone a una certa situazione. Sincrone vuol dire non che sono contemporanee, che hanno una sincronia, che possono essere lette in quel momento. Ogni ora è l'ora di una determinata conoscibilità. Siccome il termine tedesco, ora nel senso dell'avverbio di tempo, ora, adesso, in tedesco la parola è jetzt. E ce la segniamo perché è la parola che usa. È la parola che usa. Beh. Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone. Ogni ora è l'ora di una determinata conoscibilità. In questa ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Queste immagini hanno una verità, questa verità si rivela in un momento particolare che è lo yes, quindi è un processo che ha a che fare col tempo. Ma nel momento in cui questa verità si rivela, la stessa verità si rompe, c'è una rottura, addirittura una frantumazione. Ecco perché le chiamerà dialettiche queste immagini, poi spieghiamo perché. In questa ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quello che è stato si unisce fulmineamente con l'ora, yes, in una costellazione. In altre parole, l'immagine immagine è la dialettica nell'immobilità. Poiché mentre la relazione del presente con il passato è puramente temporale, quella tra ciò che è stato e l'ora, yes, è dialettica, non di natura temporale ma immaginale. Solo le immagini dialettiche sono immagini autenticamente storiche, cioè non arcaiche. L'immagine letta, vale a dire l'immagine nell'ora della leggibilità, porta in sommo grado l'impronta di questo momento critico e pericoloso che sta alla base di ogni lettura. Momento critico e pericoloso. Allora, vediamo di capirci. Benjamin sostiene quindi che esistono alcune immagini, che lui chiama immagini dialettiche, le quali vengono prodotte in un certo momento. No, sono cariche di una potenzialità, che è la potenzialità della rottura, della frantumazione del tempo e della verità insieme. Potenzialità che può non prodursi nel momento in cui l'immagine viene prodotta, ma in un momento successivo, quello in cui l'immagine viene letta. La lettura dell'immagine, secondo Benjamin, è un momento critico e pericoloso, perché che cosa succede in questa ora? Ogni ora è l'ora di una determinata conoscibilità, quindi vuol dire che io posso dare letture diverse di questa immagine in momenti, diciamo, diversi, ma mentre nella gran parte, aggiungo io, delle immagini, questa differenza di significato, differenza di lettura che io do è innocua, non rivela nulla, semplicemente rivela l'indice storico del tempo che passa, il mutamento del gusto e quindi il mutamento, cioè, se voi guardate guardate i vestiti, fate una galleria, guardate una serie di immagini di vestiti femminili dal 1850 al 1975. Voi vedete chiaramente la vostra lettura, la nostra lettura di una signora vestita con una crinolina, un guardinfante, una gonna lunga, un ombrellino sulla testa, è diversa dalla lettura che ne dava il contemporaneo, ma in generale non ci sarà nulla, questa visione di per sé potrebbe non creare nessun processo, potrebbe non rivelare nulla di particolare, se non banalmente in quell'epoca la gente si vestiva così, punto, no? Ci sono alcune immagini, secondo Benjamin, che lui chiama immagini dialettiche, in cui una certa lettura rivela una criticità, cioè rivela delle, rileggiamo, in quest'ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Ci sono degli istanti, ci sono degli ora, degli yes, che non sono dei momenti nel tempo, sono dei momenti che danno luce a tutto quello che c'è prima e tutto quello che c'è dopo. Le grandi illusioni sono questo. L'immagine della presa della Bastiglia, il 4 luglio 1789 a Parigi, o l'immagine della presa del Palazzo d'Inverno, il 7 novembre 1917 a Pietroburgo, o se volete l'immagine della morte di Arabi nel sottopassaggio dell'Alma di Parigi in altri termini, cioè ci sono immagini che o perché i media le hanno veicolate in un certo modo o perché esprimono in un istante contratto un tempo molto più largo, molto più ampio. E però, attenzione, la caratteristica di queste immagini dialettiche è tale che siccome concentrano dentro di sé tanto del tempo e tanta della processualità storica, paradossalmente non sono più vere delle altre e non esprimono nessuna verità. Anzi, la loro leggibilità o conoscibilità sta in una ambiguità di fondo, sta nel fatto che sono immagini che concentrano in sé che cosa? Esattamente tutta la potenzialità del processo da cui sono nate. Ecco perché Benjamin dice che in questi momenti la verità è così carica di tempo che si frantuma. Quando tutto il tempo viene in qualche maniera, ecco, questa è chiaramente una cosa che deriva dal messianesimo, dall'ebraismo culturale di San Benjamin. L'idea che ci siano momenti che esprimono così bene, così completamente, così che alludono così fortemente alla complessità della storia, che non possono più essere veri. La verità è, da questo punto di vista, come dire, è come se fosse banale, non ce ne frega nulla che un'immagine sia vera. Un'immagine non deve essere vera se deve funzionare bene così, deve essere aperta a tante possibilità, deve essere aperta a tante. Deve essere grosso modo quello che pensavano gli antichi che fosse l'arte, cioè che fosse il momento in cui un prodotto dell'espressione umana concentra dentro di sé una serie di significati anche diversi, anche disparati, anche, cioè allude in modo più chiaro di altre cose alla potenzialità dei processi da cui deriva. La potenzialità è una roba bastarda, perché io non la posso mai conoscere, la potenzialità. Nel momento in cui io conosco la potenzialità è perché essa si è realizzata, ma come si realizza? Si realizza in qualcosa, no? Quando una potenzialità si realizza vuol dire che butta via tutte le altre possibilità che erano più dentro di sé e ne realizza solo una. È una bellissima cosa, una potenzialità realizzata, no? La potenzialità dovrebbe essere conosciuta in tutta la sua, ma qui è come la storia. Alcuni mistici medievali sottolineavano il fatto che di Dio non si poteva dire nulla, che Dio era l'essere più negativo di tutti, non puoi dire nulla di positivo su Dio. Cos'è? L'infinito è positivo, l'infinitamente potente, l'infinitamente buono, l'infinitamente sapiente, colui che sta oltre il tempo. Che cazzo sei? Non si può dire nulla, è un essere inconoscibile questo, è giustamente il noumeno di Kant. Bene, dice, come dire, questo è la potenzialità pura è inconoscibile, ma nel momento in cui io la conosco vuol dire che non è più potenzialità, che si è. Quello a cui Benjamin allude è uno stato magico, un momento miracoloso in cui io riesco a intravedere la potenzialità, quindi non c'è nessuna verità, la verità è banale, la verità vuol dire la cristallizzazione della potenzialità e quindi sarà sempre destinata a essere superata un minuto dopo, un'ora dopo, un mese dopo, un anno dopo da un'altra verità, no? Dove sta la verità? Dove sta? La verità è povera, è di una povertà estrema, a raggiungere la verità vuol dire essere delusi. Sarà sempre una delusione la verità, perché la verità di qualcosa uccide tutte le potenzialità che erano diciamo, rimaste prima. Non è così desiderabile. La verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l'adesso, con lo yes, in una costellazione. È strana questa idea della chissà perché bene usa il termine di costellazione. Beh, perché una costellazione è effettivamente esprime qualche cosa di quello che lui vuole dire con queste parole. Una costellazione è un insieme ordinato, riconoscibile di stelle, no? Di corpi, diciamo, celesti, è una figura, quindi è un'immagine, no? Io la vedo, nel momento in cui la vedo, essa mi appare carica di un significato che non conosco, che non so. So che è stato lì da un sacco di tempo, forse dall'eternità, forse solo dal Big Bang, forse solo da qualche minuto dopo il Big Bang, o da qualche ora dopo il Big Bang. Comunque so che sono molto più antiche di me. Però nel momento in cui io le vedo, guardo, la prima volta che guardo l'orsa maggiore, so già, c'è qualcuno che mi ha detto la forma del caso, insomma io la guardo e ho questa, è una configurazione di oggetti distanti, lontani, carichi di tempo, ma nel momento in cui io la vedo, lei è lì per me. Che cosa mi dice? Nulla di definito. Nulla definito. In quest'ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Ma io so che c'è dietro la. È una sorta di immagine della potenzialità. Insomma, di immagine della. Io questa è la lettura che do io di questa. Ma voi dite, vabbè, dice cazzo, però ci hai tassati maroni, forse la storia delle immagini dialettiche, ma ne hai mai detta una? Allora, secondo me nelle tesi di filosofia della storia c'è uno dei più famosi, una delle più famose di queste tesi, che è la tesi numero 9, che parla di un quadro di Klee, che lui chiama Angelus Novus, e quello poi è quello che è dato beh, io non ho mai scritto un libro chiamato Angelus Novus, questo è il titolo della prima raccolta italiana, parliamo degli anni 50, di scritti di Benjamin, e allora mi è rimasto attaccato. Il testo è brevissimo, ma ve lo rileggo, e viene preceduto da una citazione di Gerhard Schoen, che è uno studioso della Clea, uno studioso della Shabbala, grande amico di Benjamin, un studioso veramente ebraico, ma che dice: Mein Flügel ist zum Schwung bereit, ich kehre gern zurück, dann blieb ich auf lebendige Zeit, ich hätte ben Glück. Ovviamente tracciando con il senso di dice: la mia ala è pronta al volo, ritorno indietro volentieri, poiché restassi pur tempo vitale avrei poca fortuna. Un po' critico, ma il testo lo è. C'è un quadro di Klee che si chiama Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. L'angelo della storia deve avere questo. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, testare i morti e ricomporre l'infranto, ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irrimediabilmente nel futuro, a cui volge le spalle. mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo progresso è questa tempesta. È un'immagine dialettica questa. Lui l'ha letta così. È ovvio che gran parte delle cose di lui non ci sono nel quadro di Klee. Se voi guardate il quadro di Klee è difficile trovare tutto quello che ci dice qua. Quello con le ali è piuttosto di solito quando leggo questo pezzo ma tutte grandi lo possiamo vedere. No, è un angelo piccolino non si vede cuore, no. Ma c'è un altro con cuore, giusto? Può essere. È quello che ha le ali più o meno fatte così e lui sembra una di verme quasi, perché è una figuretta così fatta poi con dentro delle lampiture di colore molto, molto pastello, molto. Non è un re di quelli con le righe nere grosse, è un re di quelli con i campi. Con i campi di colore che quasi sumano gli uni, diciamo, negli altri. Non è di quello che c'è in linea, non è dominante. No, assolutamente no, anzi è più... In realtà ci avrei voluto prendere un altro pensato perché oggi si è un po'... La rileggiamo, perché è una roba breve, ma è... C'è un quadro di Klee che si intitola Angelus Novus. Lì si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese, l'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato, ma c'è una corrente che lo spinge verso il futuro, ma lui guarda al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto, ma una tempesta spira dal paradiso. Non c'è quasi ma una tempesta spira dal paradiso che si è impigliata nelle sue ali ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo progresso è questa tempesta. È evidente che il progresso di Benjamin non ha nulla a che fare con il progresso della socialdemocrazia o del comunismo, dei marxismi più banali. Se leggiamo la tesi 14 capiremo forse qualche cosa di più, perché troviamo un'altra parola di Benjamin che è, allora non voglio cancellare questo perché è l'indirizzo a cui potete trovare, perché arriva dopo, questo è l'indirizzo a cui potete trovare gli audio delle lezioni, ma non ha che vi date perché io ne ho pochi, quindi allora la nuova parola è la parola tempo ora, che in tedesco è Jetzt. Allora quella di Angelus Novus era la tesi 14, questa qua era la tesi 9, questa qua è la tesi 14. Attenzione perché è dà l'idea di cos'è la storia per... Allora intanto c'è un esergo che è un pezzo di una frase di Karl Kraus, l'origine è la meta. La storia è oggetto di una costruzione il cui luogo non è il tempo omogeneo e vuoto, ma quello pieno di tempo ora, Jetzt. Così per Robespierre la Roma antica era un passato carico di tempo ora, che egli faceva schizzare dalla continuità della storia. La rivoluzione francese si intendeva come una Roma ritornata. Essa richiamava l'antica Roma esattamente come la moda richiama in vita un costume d'altri tempi. La moda ha il senso dell'attuale, dovunque esso viva nella selva del passato. Esso è un balzo di tigre del passato. ma questo balzo ha luogo in una arena dove comanda la classe dominante. Lo stesso balzo sotto il cielo libero della storia è quello dialettico, come Marx ha inteso la rivoluzione. Se voi mettete insieme questo frammento 14, con questa cosa, con la tesi 9 sulla virusnosis e con il pezzo sulle immagini dialettiche del passaggio in verte, potete, forse, perlomeno io, propongo questa, diciamo, lettura. Il progresso non è una marcia trionfale verso il futuro in nome di un mondo migliore. Non si fa una rivoluzione perché si vuole un mondo migliore di quello che c'era prima. Si fa una rivoluzione per il passato. Si fa una rivoluzione perché la storia. No, non perché la storia. Si fa una rivoluzione perché il trascorrere del tempo, che per la maggior parte del suo trascorrere è banale, ripetitivo, asfissiante, insignificante, noioso, opprimente. In qualche momento, in qualche yes, in qualche ora, mi spiace, ma è diverso come un tedesco dice yes da come lo chiamo ora, lo yes è un colpo di busta, accidenti, già soltanto a come si dice yes, yes, ora, yes, in certi momenti. Che cos'è che appare? In certi momenti noi vediamo qualche cosa in cui la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Noi capiamo che cosa è, capiamo che la storia non è altro che un cumulo di rovine, è il cumulo di rovine che si accumula, che cresce costantemente ai piedi dell'Angelus Novus. Noi vediamo la storia come il cumulo di rovine e non vogliamo rivoluzionare, non vogliamo il cambiamento perché aspiriamo a qualcosa, non ce ne frega un cazzo di quello che verrà dopo. Quello che verrà dopo è la consolazione per i poveretti. Noi vogliamo l'ora, è l'ora, è lo yes che vogliamo. E vogliamo vendicare tutte queste macerie del passato, questo sì. Nel momento in cui ci accorgiamo che la storia non è che un cumulo di detriti, di macerie che qualcun altro ha prodotto per noi, al nostro posto, togliendoci la possibilità di fare qualcosa, togliendola a noi o ai nostri padri, ai nostri nonni, a 10.000 generazioni fa, è per il passato che si fa la questione, non per il futuro. È per vendicare l'insensatezza, la noia, l'opprimenza, la banalità del passato. Questo è possibile farlo soltanto quando qualche immagine ha raggiunto l'ora della sua leggibilità, ci si rivela in uno yes, in un momento, non per quello che è, ma per quello che avrebbe potuto essere, perché concentra dentro di sé per un istante tutto l'insieme delle potenzialità da cui essa è nata, di cui è il prodotto, a cui potrebbe tornare se non ci fosse sto cazzo di macerie, di cumuli che gli impedisce di andare avanti, ok? E allora per questo che si fanno le rivoluzioni, è per questo che si decide, piccole o grandi, sociali o individuali, politiche o meno politiche, insomma, rivoluzioni, rivoluzioni nel senso di cambiamenti improvvisi, riconoscimento di qualche cosa. Questo cumulo di rovine, come lo vede Benjamin, non è simile al cumulo di immagini prodotte dagli apparati di cui parla Flusser. Immagini, sempre conformi a quella intenzione di trasformarci in oggetti, di programmare il nostro comportamento. Ma dov'è che sta la nostra libertà? Dov'è che sta il nostro uso creativo del linguaggio? Nel descrivere sempre più fedelmente e sempre più compiutamente quello che vediamo fuori. Ci sono già le macchine che producono copie, repliche, descrizioni fedelissime del mondo, che ce lo raccontano, ce lo riraccontano, in 10.000 modi diversi, che fanno la telecronaca della partita con 10 telecamere diverse, 50 telecamere diverse, è sempre la stessa cosa. È l'eterno ritorno di sguardo, non cambia nulla. Il pallone saltella sempre sul campo, prima o poi si descende. Un gol è uguale a tutti gli altri gol. Questo è il cumulo delle macerie che si accumula ai piedi dell'angelo. Che cos'è che vorrebbe fare l'angelo? Ricordate? Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Che cazzo? Questa è l'intenzione della rivoluzione, destare i morti. Il futuro è nulla rispetto alla montagna di ingiustizie e di schifezze e di errori e di occasioni di tempo sprecato, che sono sempre passati. Il futuro può essere tolto da un momento all'altro, il futuro è stato tolto 20 anni fa, 30 anni fa, non abbiamo più, possiamo più progettare nulla. Questa società è una società che ha trasformato il tempo in un presente continuo, incessante, dilatato, è sempre oggi, è sempre ora. Ma non è lo IEPS di Benjamin, è uno IEPS lungo, rilassato, ripetitivo, noioso pur nella varietà di tutti i piccoli e grandi modelli culturali che ormai coesistono, ma che pagano tutti il prezzo dell'insensatezza. Essere senza futuro o senza passato o senza tutti e due, avere un presente continuo carico di sonnifero e di ammorbidente vuol dire questo, vuol dire dichiarare l'universale equivalenza di tutto, vuol dire non avere più la possibilità di dare un senso alle cose. Dare un senso vuol dire quello che diceva Flusser, strappare dei pezzettini di pixel dalla immagine e ricomporli in un altro ordine sulle righe di riportare è una operazione apparentemente riduttiva, ma a volte poi da lì posso ricostruire. Una cosa del genere ce la propone Benjamin utilizzando le immagini, quindi vedete, attenzione, io credo che le immagini dialettiche abbiano qualche somiglianza con le immagini qui dette di Flusser, entrambe sono sempre molto poche. L'esistenza di un'immagine dialettica, come la dice Benjamin, o di un'immagine quieta, come la descrive Flusser, ha come condizione di esistenza l'esistenza di innumerevoli altre immagini che non hanno quelle caratteristiche, in cui non c'è, in cui non si può. Ma non io, che non posso vietare nulla, ma credo che nessuno vi vieterebbe di leggere il testo di Benjamin in un modo anche diverso, e uno potrebbe pensare, se fosse particolarmente pessimista, che forse ogni immagine può diventare un'immagine eretica, e ogni tempo e ogni ora e ogni tempo, scusate, può diventare un tempo-ora, uno jetzt-zeit, un tempo in cui la verità si carica, ne concentra così tanto sino a frantumarsi, no? Può anche darsi che tutte le immagini possono funzionare così, e che tutto questo dipenda soltanto dalle intenzioni con le quali noi riusciamo a caricarle, o dal miracolo che riusciamo a... Può essere che non occorra che quell'angelo sia un quadro di Klee perché esprima quelle cose per lo Walter Benjamin, per ciascuno di noi. Può essere che io trovo è un concetto che per certi versi è affine, se volete, adesso forse la faccio troppo lunga, troppo lontana, insomma, ma al concetto di epifania, non nel senso del Ben Joyce che aveva elaborato James Joyce da giovane, però ovviamente prendendolo dal pensiero, diciamo, cattolico, sia nel Portrait of the Artist as a Young Man, cioè sia nel ritratto dell'artista da giovane, sia in più tardi in Ulysses, Joyce descrive spesso delle scene da lui definite epifanie, che sono scene nelle quali il giovane protagonista Dedalus, nel primo romanzo, cioè Dedalus torna anche come personaggio protagonista nel romanzo, comunque il re Dedalus, che da giovane è una produzione autobiografica di Joyce, cioè dell'autore, poi nel romanzo successivo si spartisce con Leopold Bloom, col protagonista di Ulysses, questa funzione, insomma, comunque è sempre detto Lucy Deller, che passeggia, cammina, guarda, gli si presenta una scena sotto gli occhi, a un certo punto questa scena si trasfigura da un certo punto di vista, cioè lui vede in questa scena, può essere, c'è una fase particolarmente bella, che è quella in cui non Dedalus ma Bloom in Ulysses vede una violinetta che è appena Tower sulla spiaggia e sbeccia sotto la sua donna, perché casualmente la donna le si alza, lui riesce a vedere l'incontro delle cosce e Bloom si masturba sulla spiaggia, poi insomma c'è questa scena un po' strana. Quella è una epifania, cioè le mutandine di Gerti sono una epifania, da un certo punto di vista. C'è un momento in cui sembra ripetitivo, insomma, se voi leggete come lo dice Joyce, io non sono Joyce, quindi non riesco a comunicarvi la cosa, ma ce ne sono altre meno grevi dal punto di vista del contenuto. Adesso questa per me che mi avete in mente, non potrebbe avere. Sui miei meccanismi mentali. Allora, l'epifania comunque è un momento nel quale o qualche aspetto imprevisto o sconosciuto della realtà, o addirittura alcune cose che ce n'è un'altra, però c'è una bella storia in questa fase, perché a un certo punto ci sono le campane di una chiesa vicina che mi rompono, ho detto, questa percezione di Bloom della cosa, e c'è una specie di dialogo, non si parla mai Bloom ovviamente, e questo sarebbe l'antica, questo sarebbe nel parallelismo Odissea, diciamo, insomma, Ulisse sarebbe l'episodio chiamato Nausicaa, per caso c'è nessun titolo, in questi sono titoli che sono stati ricavati dalle lettere successive di Doris. Ma insomma, diciamo, torniamo, epifania, si ha una epifania nel momento in cui io scopro un lato, scopro una combinazione delle cose che non è quella usuale o che mi colpisce come una cosa che è nuova. Allora, torno su questo perché dico che vedete che dietro a questo c'è sempre, anche dietro a tutto questo discorso di Benjamin, c'è sempre il rivelarsi della possibilità. È quando le cose smettono di essere quello che sembrano o quello che stanno realizzando o il loro corso usuale, e ci rivedono, cioè, ups, accidenti, dietro c'è questa cosa. Facciamo un altro esempio. Time is out of joint, romanzo di romanzo di Philip Dick del 1958-59. Il protagonista, in pratica, se, avete, se non, non avete letto il libro, ma avete visto il Truman Show, la storia è praticamente quella del Truman Show, cioè Peter Way ha copiato il libro, poi dopo ha concentrato in maniera diversa, ma ha praticamente copiato il Truman Show senza mettere il capo la domanda di tesi, però la storia è quella, cioè la realtà non è quella che è una cosa finta. Allora, il protagonista, Randall Grant, si chiama il protagonista di Time Out of Joint, che è in italiano tutto l'uomo di doppia premio e poi tempo fuori di senso, tempo fuori l'uomo. Il Time Out of Joint è una espressione shakespeariana della metà, il Time Out of Joint, il tempo giunto dai tardi, tempo fuori di sesto, tempo fuori dai tardi. Insomma, in realtà non è, in quella scena di cui voglio parlarvi non c'è Randall Grant, ma c'è Victor che è suo cognato nella finzione, lui non sa di essere un pittore. Alcuni di questi personaggi non sanno neanche loro come Randall Grant, alcuni sanno di partecipare a una finzione, ma altri hanno avuto la memoria cancellata come lui. Questa è una differenza rispetto al film. Nel film non c'è neanche dei personaggi che non sappiano le cose come non le sa Truman. Comunque, insomma, a un certo punto questo Victor sta in bagno entra in bagno, si mette davanti allo specchio e fa un gesto con la mano per tirare una cortina che accende la luce. La sua mano si chiude nell'aria, non c'è nessuna cortina, c'è un interruttore. Victor è stupito, stravolto. Lui si aspettava di trovare un interruttore a catenella, insomma, di quelli vecchi, così. Detto no, c'è al muro. Lui ha un ricordo, un'abitudine, gli pare che improvvisamente la realtà si è rivelata diversa da quello che lui si sarebbe aspettato. La prima parte del romanzo è costellata di episodi di questo genere, che capitano o a Randall Grant o a... e le cose più interessanti sono quelle che non a caso poi Peter Way ha valorizzato nel film, e cioè quando Randall Grant o Truman nel film si rendono conto che dietro a questo muro non c'è un altro muro, non c'è una fila di case, ma che si trova in una specie di villaggio del West dei film di Sergio Leone, con le facciate solo e dietro le travi che li puntellano, insomma, ma come? Quando la realtà non è quella che tu ti aspetteresti che fosse, o perché hai un ricordo, perché hai un'abitudine, ma si presenta in maniera diversa, che cos'è questo se non il rompere del possibile del reale? La realtà dimostra di essere più ricca di quello che vuol far credere di essere. Questa sedia non è solo questa sedia, è la forma vigliacca e infida che ha assunto un extraterrestre per fare in modo che io mi ci sieda sopra, e appena mi ci siedo i tentacoli mi avviluppano e l'extraterrestre mi mangia tutto. Ecco la bellezza, la forza e perché la fantascienza è così divertente, perché suggerisce sempre che la realtà non sia quello che è, che ci siano, che quando io ho cristallizzato, immiserito, diminuito la realtà, per la realtà è qualche cosa di stabile e di fisso, ma in realtà non c'è nulla di stabile e di fisso, siamo sulle sabbie mobili e gli incendi non sperigne, scamminiamo sui vulcani, come dice Enea nell'opera che porta il suo nome, Virgilio, nell'Eneide. Camminiamo sui vulcani, camminiamo sul fuoco, camminiamo galleggiamo sul mare delle possibilità, tutto ciò che noi chiamiamo realtà non è che la cristallizzazione temporanea, congiunturale, transeunte, totalmente casuale spesso, di qualche cosa che è ben più ricco e che è quello che fa sì che la realtà sia quello che è. La realtà è quello che è perché potrebbe essere diversa, non perché qualcuno l'ha destinata ad essere così fino da lì. Non perché le cose sono così, sono due versi molto belli che dicono: non dire le cose sono così, non dire le cose sono così. Le cose potrebbero essere diversamente, le cose potrebbero essere diverse. Non dire così è e sempre sarà. Le cose potrebbero essere diversamente, perché è la loro. L'unica essenza che io posso, l'unico modo che posso descrivere la materia, l'uomo, la realtà, è questo, un campo di possibilità. Non c'è altro modo di descriverlo, non c'è altra descrizione possibile. Nessuna descrizione positiva della realtà può rendere giustizia alla ricchezza del reale, alla ricchezza della materia. Ecco, quando questa ricchezza si rivela, perché è la potenzialità, che traluce, che si fa vedere in controluce dietro a una cosa, ecco che la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Perché, lo ripeto, la verità è triste e misera se è l'elevazione sull'altare di una delle infinite realizzazioni del possibile. E per nostra fortuna il possibile non tollera di essere messo sugli altari, soltanto le verità tollerano di essere messe sugli altari. Ma perché il possibile è come il Dio proprio della mitologia greca, che cambia forma in continuazione e non lo si può mai fissare e bloccare, perché lui è capace di cambiare, di mutare costantemente. Naturalmente so bene che una realtà radicale e davvero continua tra l'altro una generazione di mal di testa e quindi diciamo i primi noi hanno come si voleva e siamo felici che le sedie siano sedie e non siano extraterrestri che non aspettano altro che di avvolgere i loro tentacoli contro un giorno. Va bene. Io con questo chiudo la parte relativa a immagine e parola, che vi ho detto molto poco, però avete leggetevi l'uno o l'altro di questi testi di Flusser, e se volete trovare qualche cosa anche di Benjamin non potete trovarla, ma insomma sono pezzettini, non potevo mettervi il libro per un'altra pagina. Va bene, quando torneremo, quando ci vedremo a gennaio, parleremo di come si può giocare al possibile con la comunicazione politica, sociale, eccetera, cioè si può giocare, come si può fastidio agli avversari, a quelli che sono stati pazzi comunque, anche se non sono avversari, utilizzando strumenti che rivelano le potenzialità del linguaggio, quindi il falso, i nomi collettivi, tutte queste cose che le persone seguono. Se noi facciamo seri. Buon festa. Allora, che per cortesia, prendiate nota, quello è l'indirizzo al quale troverete www.archive.org. / details e poi troverete le lezioni di audio. È quello vecchio, anche con Cinegno, anche tutti gli altri. Ce n'è una sola. Non ho avuto solo io. Gli altri. È un corso del film. Adesso quello voi cercate, quello tiene il titolo. Lezioni, sociologia, Trienio, qua c'è tutto il titolo che vi diamo, però lezioni, comunicazione, tutte le cose. Qualcuno anche il libro nel vetro? Sì, sì. esattamente su queste robe qua. attempeoar, non si riescano a finire pure a attempeoarsi. Attempeoarsi, sono sempre, no? Sì, allora, sì. Allora, sicuramente i tempi sono 1400, come faccio a essere? Cazzo, qua possiamo pure fermare, ragazzi, ma...